Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, di che cosa vi parlerò oggi? Anzi, di che cosa parleremo oggi? Allora io vi leggo una filastrocca per introdurre l'argomento. Domani è festa, si mangia la minestra. La minestra non mi piace, si mangerà la brace. La brace è troppo nera, si mangerà la pera. La pera è troppo bianca, si mangerà la panca. La panca è troppo dura, si va a letto addirittura. Bene, avrete capito che si parla di minestre, parleremo di minestre, perché le minestre stanno scomparendo dalle nostre tavole. Se ne va un pezzo di cultura materiale del nostro paese. E allora andiamo a fare così un giro per l'Italia per capire cosa sta succedendo, se veramente non si mangiano più, specialmente di domenica e di festa, perché appunto ci sono tantissime filastrocche e tantissimi signori si ricordano queste filastrocche. E allora riproponiamola. Ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo questo viaggio dal Veneto. Dal Veneto perché? Perché in Veneto la minestra ha una grande tradizione. Poi continueremo anche nel Friuli, due regioni dove ci sono grandi tradizioni. Andremo a capire se esistono ancora, se si mangiano ancora, se si mangiano solo a casa e se non ci mangiano più nei ristoranti. Cominciamo con un grande gastronauta, cominciamo con Giancarlo Saran, che ci racconterà un po' del Veneto. Buongiorno Giancarlo. Ciao Davide. Cosa hai scoperto sulle minestre? Cosa scopri ogni giorno? Sulle minestre il primo riflesso che ti viene è quello che la minestra la mangi dalla mamma, perché sono piatti così molto familiari, di tradizione, quindi così. Da noi per esempio la minestra di riso e birri, cioè di riso e piselli, è una cosa consolidata, tenendo presente che però è un piatto regale, perché nella tradizione della Serenissima Repubblica era il piatto preferito dal Doge e veniva fatto in suo onore in una data particolare dell'anno, e i più rinomati erano i piselli di Peseggia, piccoli e dolci. Peseggia è una frazione di Scorzè. Senti, ma ci sono ancora, quindi, cioè si mangiano ancora queste minestre? Ah, le minestre si possono ancora trovare in alcuni, anche in alcuni ristoranti o trattorie di resistenza umana, quelle per intenderci per blue collars, cioè i locali che lavorano a mezzogiorno a prezzo fisso per i lavoranti di passo. Hai detto blue collars? Ho capito bene? Blue collars, sì, beh, è citato da un famoso film di Paul Schrader con Harvey Keitel, che ha fatto storia a suo tempo, fin dagli anni Ottanta. Rimani con noi perché abbiamo già un radioascoltatore, Aldo dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Aldo. Buongiorno a lei, caro Davide Paolini, ho l'onore di parlarle, sono commosso ed emozionato. Devo parlare? Sì, certo, come no. Sì, allora, proprio stamani Lupus in Fabula, che ho sentito nel suo incipit di parlare delle minestre, proprio stamani dicevo, ho preparato una bella minestra di pesce che è la fine del mondo. Non so se lei vuol sapere. No, guardi, mi fa già piacere che lei abbia preparato la minestra magari per domani, ma sento dall'accento che non è brianzolo, è molto toscano. Sono livornese, ma ho 35 anni che abito qua. Minestra sui ghiozzi. Bene, Aldo, grazie della sua testimonianza. Sentiamo Enrico dalla provincia di Brescia. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi dica. No, mi è venuto un sentimento di malinconia pensando alle minestre, perché la mia mamma mi faceva una bella minestra con i fegatini di pollo, sedano, carote, e così, parlando, contribuendo diciamo alla trasmissione, direi quasi che sia un dovere portare appresso le proprie tradizioni, ricordandolo ai propri figli, alle proprie mogli e a tramandare questa ricetta che mi ha fatto venire un po' di malinconia. Non so se qualcuno se la ricorda. Beh, però credo proprio di sì, Enrico. Noi la ringraziamo, grazie di questa testimonianza. Quindi vuol dire che la minestra è ancora presente. Torniamo al nostro amico Saran. Ma stavi dicendo quindi questo posto dei blue collars. Sì, sono, penso che sia sparsi in tutta Italia e quindi anche nel Veneto. Se vuoi ti posso raccontare un aneddoto che è divertente. Raccontacelo. C'è una trattoria, un ristorante, si chiama Il Cavallino, è alla periferia di Castelfranco Veneto, e lì mi è capitato di andare, una situazione così un pochettino atipica. Era un sabato a mezzogiorno e il locale non aveva gli abituali clienti della settimana, c'era poca gente. E allora la signora mi guarda e mi fa: dai, senta, noi ci stiamo preparando la minestra per noi, era una minestra di verdure. se vuole c'è questo, insomma, quindi ti accontenti un po' come la filastrocca che hai detto prima. Però se mi permetti, volevo aprire una piccola parentesi per chiudere questa citazione che è molto simpatica. Allora, questo locale, che è un locale che viaggia a 10-12 euro a prezzo fisso, è noto per il suo baccalà alla vicentina, che si può prendere anche per asporto e per le trippe, e sono dei veri cultori di questo prodotto, tanto è vero che una mano anonima ha segnato sul bancone del ristorante questa frase: la cuoca si chiama Bianca. Te la dico in vernacolo, certo, perché è troppo divertente: è il bacalà de Bianca, l'è così buon che te tira su più del Viagra, cioè tradotto. Sì, non c'è bisogno di traduzione. Grazie Gianfranco, Giancarlo, scusa, grazie Giancarlo per la citazione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di domani è festa, si mangia la minestra. Devo dire che sono veramente così stupefatto dai tanti sms che stanno arrivando, veramente tantissimi. Quindi la minestra esiste ancora, o meglio l'idea della minestra. Gabriella da Milano, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire la mia esperienza. Io sono milanese di tradizione e ho perso però la tradizione delle minestre che faceva mia mamma. Però ultimamente ho scoperto le minestre di legumi, mi sono specializzata in varie minestre di legumi e essendo stata 6 anni in vacanza in Toscana ho inserito nel mio menù anche le minestre toscane, tipo la papa al pomodoro, l'acqua cotta, la ribollita. Essendo che sono molti ospiti spesso, le mie minestre di legumi vanno un pochettino a ruba, se la portano a bene, casa. Bene, allora vuol dire che funzionano ancora, Gabriella, grazie della sua testimonianza. Bene, ora andiamo in Friuli, andiamo da Teresa, spero di pronunciarlo bene il cognome, Kovacezak. Buongiorno. Buongiorno, è stata quasi bravo. Al ristorante Sale e Pepe di Stregna, famosissimo in Friuli. Allora, Teresa, ma ci sono ancora le minestre friulane? Ma assolutamente sì, e mi piace che il signor Giancarlo prima abbia parlato di resistenza umana. La resistenza umana di quelle persone come noi che nelle piccole trattorie di montagna tengono, diciamo, la tipicità ancora in tavola. E la minestra credo che non è diventata, oppure è una minestra della domenica, perché come noi sappiamo adesso anche le mamme lavorano, anche se qualcuno dice è buona la minestra della mamma, ma le mamme lavorano e quindi poco tempo nella preparazione, quindi è diventata forse la minestra mangiata nelle trattorie, nei ristoranti, magari anche quelle minestre un po' ripensate o anche lasciate nella tradizione, sono un piatto della domenica. E come? Quindi allora domani è festa, si mangia la minestra, funziona ancora, Teresa? Ma io direi di sì, perché come dicevano anche gli altri ascoltatori, la minestra è comunque legata a certi ricordi, è comunque un qualcosa che ti coccola, è un qualcosa di quando non vuoi giocare con il cibo, ma di quando vuoi nutrirti con molta tranquillità. Bene, grazie a Teresa del ristorante Sale e Pepe di Stregna, provincia di Udine. Sentiamo una radioascoltatrice, Lorena, dalla provincia di Roma. Buongiorno Lorena. Buongiorno Paolini, come va? Bene, grazie, lei? Bene, grazie. Volevo dire delle minestre, non si usano più, è raro, nei ristoranti non le fa più nessuno, almeno qui a nel Lazio. Però io quando ero ragazza mia nonna le faceva, le mie nonne, mia madre, mio padre, era un piatto normale. Un tempo era un piatto normale, ora costituiscono l'eccezione, posso essere d'accordo con lei, Lorena, grazie, la ringrazio dell'intervento, ricordo numero verde 800 24 00 24. Bene, ora andiamo in un'altra terra che è ricca di minestre, andiamo in Liguria, andiamo a Genova Voltri da un noto ristoratore della tradizione, da Giovan Battista Barbieri dell'osteria Usanto. Buongiorno Barbieri. Buongiorno. Barbieri, esistono ancora le minestre nel suo ristorante? Sì, certo. Sì, sì. Ce ne dice qualcuna? Beh, guardi, vengono fatte a seconda della stagione, diciamo il minestrone o minestrun in genovese è fatto praticamente tutto l'anno, poi abbiamo la sbira che è una zuppa di trippe, abbiamo lo zemin di ceci, che è una minestra fatta con ceci, bietole e fagioli cannellini, abbiamo la zuppa di lattughe ripiene, abbiamo la zuppa di cavolo nero col riso, il cavolo nero sono quelle cavoli a foglia lunga che vengono fatti in minestra con un pesto di maggiorana, di persa. Sono quelli che hanno bisogno della brinata, no? Perché diventano più croccanti. Esattamente, più freddo, più brina viene, sempre migliore la qualità. E poi noi abbiamo sempre, continuamente, la zuppa di baccalà, che è una cosa un po' particolare. Ecco, Barbieri, la gente le chiede ancora, quindi le mangia volentieri le minestre? Sì, le mangia volentieri. Dirò che prima ascoltavo la signora del locale in montagna, non ho capito da dove. Sì, è comunque Stregna, provincia di Udine, ecco, Friuli. Lei diceva che la domenica è una cosa, noi la domenica non la mangio, non la mangia nessuno, cioè un po' perché penso un po' per vergogna, magari sembrerà di mangiare una cosa usuale, invece il minestrone è una cosa più buona che ci sia. Quindi lei dice c'è una certa ritrosia del cliente perché sono i tempi della povertà, e questo è il punto. Sì, invece in settimana c'è più libertà, diciamo, di allora uno si butta, poi assaggia, dice però anche questo è una cosa, sono cose buone, perché poi anche se sono semplici, ma è difficile trovarli ancora nelle trattorie. È vero, è vero. Bene, io anzi mi congratulo con lei che continua a fare queste minestre che tra l'altro sono buonissime, perché poi appunto facciamo anche un'altra cosa, non so se lei, penso di sì, che l'avrà sentito, è la puta. Che sarebbe praticamente il minestrone senza pesto, con tanti fagioli lumè, e poi la buttiamo nella polenta. Viene servita tiepida con l'olio extravergine. Quindi un piatto invernale sicuramente. Sì, questo un piatto che cominceremo a farlo tra 20 giorni, un mese. Bene, io la ringrazio. Grazie a Giovan Battista Barbieri dell'osteria Usantu di Genova Voltri. Sentiamo Ilaria da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno. Io chiamavo per fare una domanda, in realtà. Volevo sapere la differenza che c'è tra le minestre e le zuppe. Ecco, tu guardi, poi ci faremo spiegare da una linguista la battuta se non è zuppa è pan bagnato, e andremo a scoprire, poi diremo anche la definizione di minestra, che ha un'origine storica abbastanza interessante. Cioè minestra deriva dal verbo minestrare, cioè vorrebbe dire amministrare, quindi la zuppa sicuramente è un qualcosa di un po' più pesante, magari quando c'è il pane raffermo dentro, molto, molto spesso, però poi andremo a vedere anche queste peculiarità. Bene, grazie Ilaria. Io ora con noi Carlo Cambi, che è autore di una guida, anzi di guide che hanno cambiato nome per vari motivi durante questi anni, però queste guide di Carlo Cambi, che erano, come la prima si chiamava Gambero Rozzo, e queste guide avevano come contenuto le trattorie sparse per tutto il paese. Quindi sicuramente io voglio chiedere a Carlo, visto che ha fatto questa grande indagine, se nelle trattorie sparse per l'Italia la minestra è ancora presente. Assolutamente sì, Davide, intanto buongiorno a te che ci ascolta. Direi che è uno dei piatti simbolo per identificare la trattoria dal ristorante o l'osteria dal falso tipico. Se non c'è presente in menù almeno qualche minestra, evidentemente non c'è richiamo alla tradizione né alla cucina popolare. E quindi sicuramente, cioè tu in questa, diciamo, non so quante sono le trattorie che 1500. Hai, sono 1500, hai trovato una frequenza abbastanza importante. Importante, direi soprattutto nelle aree non metropolitane, ovviamente, dove l'osteria, la trattoria mantiene integralmente il suo DNA di luogo di ritrovo. E nelle grandi città ovviamente trattorie e osti tendono a scimmiottare la grande ristorazione perché hanno una clientela di tipo diverso. Ecco, volevo chiederti anche questo, cioè tu l'hai notato appunto nelle trattorie con le tue guide, ma tu pensi che nelle case si mangiano ancora le minestre nei giorni di festa? Io penso che nelle case si mangi malissimo ultimamente, perché intanto le poche minestre che sono ancora presenti nel desco familiare sono spesso e volentieri comprate nelle buste dei surgelati, anche se la minestra dovrebbe avere quel significato straordinario di coesione nella famiglia. In fin dei conti, se tu pensi alla tradizione toscana, umbra, marchigiana, delle ribollite, delle zuppe, delle minestre povere, delle acque cotte, delle zuppe di lenticchie, delle paste e fagioli, eccetera, eccetera, questa è veramente l'anima più profonda della gastronomia delle nostre regioni. Purtroppo però oggi dove la trovi la massaia che ha voglia di andare all'ortolano, farsi la spesa, comprare tutto per fare nutrizione, pulire le verdure, tagliare la tocchetta, aspettare che bolla, eccetera, eccetera. Tuttavia dico una cosa, la moda del bio e la moda e anche la crisi che ci ha riportato a costumi un pochino più moderati, secondo me ci faranno vivere un revival anche nelle mura domestiche della zuppa e della minestra. Grazie Carlo Cambi, grazie Carlo, a presto. Sentiamo Marco dalla provincia di Pordenone, buongiorno. Sì. Marco. Buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Le rubo 10 secondi e volevo solo parlare di una minestra che ho mangiato a Fontana Fredda di Pordenone e a San Quirino, non faccio nomi di ristoranti per correttezza, di orze fagioli con del radicchio verde e del guanciale. E volevo farlo presente perché è veramente deliziosa e molto buona. Bene, sicuramente era la primola, lo faccio io il nome. Antonio dalla provincia di Vicenza, buongiorno Antonio. Buongiorno Paolini. Tre minestre della mia infanzia ormai introvabili. Riso maridami, cosiddetta minestra maridà, cioè maritata, riso e tagliatelle, che non si fa mai ormai più. Bene. Poi il pamoio, la minestra tipica per i contadini quando fanno la trebbiatura, un brodo vegetale con del pane e biscotto dentro per togliere la polvere dalla gola. E il famoso risi e latte, il riso cotto nel latte, tipicamente veneto, ormai è impossibile mangiarle se non ce le prepariamo noi. Grazie Antonio, sentiamo Donatella da Catania, sentiamo anche la Sicilia. Buongiorno, sono Donatella. Io in realtà telefono da Catania, però volevo dire che in facoltà di agraria di Reggio Calabria, dove noi abbiamo la mensa e mangiamo lì alla mensa, abbiamo sempre in inverno delle zuppe e addirittura di stagione, cioè i fagioli, è una mensa un po' particolare. Ecco, si mangia bene in questa mensa, è l'unica mensa di cui sento parlare. Sì, perché è una mensa in cui c'è una signora che ogni settimana fa dei cibi particolari, la settimana scorsa la pasta con il ragù di capra, la verdura... Perché è una mensa un po' a misura d'uomo, ecco, non è una mensa... Donatella, ci dia l'indirizzo di questa mensa. All'Università, alla Facoltà di Agraria di Reggio Calabria. Università, Facoltà di Agraria di Reggio Calabria. Bene, io credo che sia un indirizzo da segnare sull'agenda. La ringrazio, Donatella. Il gastronauta. Domani è festa, si mangia la minestra? Questo è il tema di questa trasmissione. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sono tantissimi gli sms, poi vedrò anche di leggere. Ma allora continuiamo con i nostri ospiti e eventualmente con i nostri radioascoltatori. Bene, ora andiamo in Sardegna. Andiamo in Sardegna perché è una terra che è ricca di minestre. Andiamo da Rita Denza dell'hotel ristorante Gallura di Olba, famosissima. Bene, io voglio chiedere, Rita, ma esistono ancora le minestre in Sardegna? Sì, esistono ancora. Buongiorno Davide. Buongiorno. Paolini. Esistono ancora e sono anche servite nei ristoranti oppure solo nelle case? Serviamo anche nei ristoranti. In Sardegna usano molto le minestre, in modo particolare nei giorni di festa. Quindi domani è festa, si mangia la minestra, è ancora un detto che può funzionare? Sì, funziona ancora in Sardegna. Ecco, ma quale tipologia di solito di minestra è in uso in Sardegna? Allora, ci sono le minestre di legumi, le minestre fatte con il brodo di montone oppure di capra, secondo di pecora, a secondo quello che uno deve usare come ingrediente da mettere dentro la minestra. Perché in Sardegna fanno moltissime paste fatte in casa, tra cui i cosiddetti filindei, che non so... Sì, i filindei che sono famosissimi. Che viene tirata a mano... che è un po' come i capelli d'angelo, ma doppio, diventa come un tessuto. Mi dicono che sia difficilissimo da ottenerli, vero questo? Sì, è vero, però si usa molto, in modo particolare, per esempio, domani, che è San Francesco. Quindi diciamo le minestre hanno, durante le feste, alcune minestre sono abbinate alle feste, questo succede esatto. Anche in altre parti d'Italia. Senta Rita, ma anche molte minestre a base di pesce ci sono? Sì, ma non eccessivamente tante, in modo particolare vengono fatte più al sud della Sardegna e al centro come Oristano, Cagliari, le minestre fatte col pesce. E qui invece dalle nostre zone vengono fatte appunto con le arzelle, che sarebbero le vongole. Quindi la fregola con le arzelle può essere considerata una minestra? Sì, è una minestra. La fregola ora è molto diffusa, quindi è andata anche fuori dalla Sardegna, si trova molto spesso. Bene Rita, io la ringrazio. Grazie. Immagini, come sempre, grazie di come nuovo, sempre. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Allora io a questo punto, avete sentito che prima è stato annunciato che la Radio 24 festeggia i dieci anni di attività. E allora anch'io voglio così far andare in onda un ricordo che si avvicina molto alla minestra, un ricordo toccante che mi ha stimolato a scrivere il mio libro, che Le ricette della memoria. Lo sentirete perché parla veramente di un qualcosa che è in brodo di molto particolare. Poi, dopo che avete sentito, magari ne parleremo. Prego. Io devo annunciare una cosa straordinaria. Non mi è mai capitata, in 4 anni che faccio queste trasmissioni, di avere al telefono una signora di 101 anni che ci ha chiamato, Rosa da Padova. Buongiorno Rosa. Buongiorno. Io vivo a Padova, però sono originaria della Lombardia. In Lombardia, ai miei tempi, io facevo la maestra. Continuo? Sì, continui signora, per carità. Dunque, nel periodo delle castagne, c'erano i famosi filson, che erano castagne sbucciate e infilate col filo, con la corda, che si mettevano a mo' di corolle al collo. Quando erano proprio le nostre case erano sempre con le porte aperte in quel periodo, e in quel periodo succedeva che i bambini venivano con queste grandi corolle di filson, di castagne, entravano e sul tavolo delle nostre case trovavano sempre le ciotole di latte caldo, dove mettevano dentro queste castagne e le mangiavano. Signora, io le faccio innanzitutto i miei complimenti, perché lei ha ancora una chiarezza ed è veramente straordinaria. La ringrazio di questa sua testimonianza e le mando un affettuoso bacio. Grazie tanto a Rosa da Padova e spero che magari anche in qualche altra trasmissione lei ci chiami, perché le daremo sempre la linea molto volentieri. Grazie Rosa, grazie tante. Bene, avete sentito, mi commuovo ancora a risentire questa voce. Ma andiamo a Firenze, andiamo da Fabio Picchi, chef patron del Cibreo di Firenze. Buongiorno Fabio. Buongiorno, che carina farci sentire queste due donne straordinarie, complimenti. Bene, devo dire che cioè, questa voce di 101 anni, e sono passati tanti anni di questa signora, quindi non so, magari mi auguro che qualcuno l'abbia sentita e telefoni dicendo che c'è ancora. Comunque Fabio, la Toscana è ricca di minestre, ci sono ancora le minestre in Toscana? Sì, assolutamente, siamo proprio un paese di minestrai. Non ti dimenticare che la parola minestra ha la stessa origine di ministro, servire la minestra, certo. Proprio no? Servire, è quello il significato della minestra. Allora quando nelle case si ha qualche tristezza, si ha qualche ansietà, servire una minestra calda, proprio tac, riasserena subito gli animi. E infatti minestra deriva da ministrare, amministrare, esatto, proprio, esatto, quindi esatto. Il discorso del grande contenitore dove si entrava il grande cucchiaio per servirla, è verissimo questo? Esatto, caro. Senti, ma c'è una minestra in particolare in Toscana che ancora così ha grande interesse, la gente la chiede anche al ristorante? Sì, ma sai, noi guarda, veramente posso parlare di tutte le minestre, si parla in senso lato, no? Anche delle farinate, la farinata col cavolo nero che si mangia col cucchiaio da noi, capito? Come una minestra, no? O una pasta e fagioli densa, no? Ma è anch'essa una minestra alla fin fine. Oppure la più classica, quella che io ricordo sempre ai miei amici, ai miei figli, a chiunque, l'affettosa, questa minestrina fatta con l'acqua, per minestre notturne fatte con poco tempo perché bisogna andare a dormire, allora uno fa bollire l'acqua e in 6 minuti ci cuoce dentro la pastina e poi la condisce con un po' di burro e se vuole con un po' d'olio, con entrambi, e poi ci mette dentro un po' di parmigiano, ma se uno non ha un parmigiano ci può mettere dentro anche mondata, una crosta avanzata e sottratta dal frigorifero, e poi una bella manciata di pepe nero, e poi quel che uno ha in casa, una foglia di sedano, una foglia di basilico. Fabio, non fammi venire fame, che ancora c'è parecchio tempo che devo andare a tavola. Questa minestra si chiama l'affettosa in famiglia mia. Bene, grazie Fabio della collina che mi hai creato, a presto, grazie. No. Grazie. Sentiamo Guerino da Milano, buongiorno Guerino. Sì, buongiorno. Mi dica. Dunque, io ho a memoria una minestra della mia mamma che è veneta, io vivo in Lombardia, al contrario della signora Rosa, alla quale mi associo per gli auguri. E la minestra che faceva la mia mamma era una minestra di pasta e fagioli. Vabbè, certo. Che lei la faceva con l'osso di prosciutto. Niente male, sua madre era una grande intenditrice, Guerrino. Siccome però produceva molto grasso, la sera che lei le preparava, poi la metteva fuori dalla finestra. La faceva sgrassare. E la mattina toglieva il grasso, certo, in eccesso e insomma... Bene, lei ci ha dato un espediente interessante. Grazie Guerino. Sentiamo Anna dalla provincia di Bari. Buongiorno Anna. Buongiorno. Sono emersi due ricordi. Il primo è una minestra della provincia di Taranto, Martina Franca. Allora quando spuntano sulle vigne quei riccioli verdi, teneri, ecco, si fanno scottare e poi si uniscono alla purea di fave, sgusciate naturalmente, e poi si aggiunge un filo d'olio. L'altro ricordo che è emerso, io ero felice quando la mia mamma diceva per cena non c'è niente, perché sapevo che avrebbe scogitato, e quindi tagliava delle fette di arancia d'inverno, le poneva nelle ciotole, lasciava cadere con la buccia l'acqua bollente e poi le condiva con dell'olio. E noi immergevamo le friselle, ecco. Bene, grazie Anna. Sentiamo Fernando da Roma. Buongiorno Fernando. Buongiorno, io volevo allacciarmi alla minestra segnalata poco fa. Probabilmente si trattava della minestra di luppolo che volevo segnalare anche io. Una buonissima minestra, molto facile da preparare, di grandissimo effetto. Oltre alla minestra di luppolo volevo ricordare la minestra di cicerchia, che è un legume... Marchigiano. Molto, diciamo, ormai difficile da trovare. Ma si trova nelle Marche, nelle Marche si trova. Sì, si trova ancora, sì. Buonissima la minestra di luppolo. Grazie Fernando da Roma, sentiamo Gualtiero da Milano, buongiorno Gualtiero. Buongiorno Davide. Buongiorno. No, volevo solo dire questo, nel locale che abbiamo in centro a Milano le zuppe sono sempre lì, non le zuppe o le minestre, va dal pancotto al minestrone a quello che trova il mercato. È che sei sempre soggetto al paragone con di quello che facevano le mamme o le nonne, perciò devi sempre stare molto attento. Sì, perché il confronto, hai ragione, il confronto è sempre vero. Vabbè, comunque nella tua trattoria si mangiano delle ottime minestre, non faccio poi altra pubblicità. Grazie a Gualtiero da Milano. Bene, abbiamo tantissime sms, non so come fare, tantissime telefonate, ora devo passare la linea alla regia. Sentiamo Paolo da Milano, velocissimo Paolo. Pronto? Sì Paolo, mi dica. Sì, buongiorno. Velocemente, non so se è già stata ricordata, anche se non sono milanese, anche se sono milanese non sono altoatesino, è la zuppa d'orzo altoatesina che è... Buonissima, ci aggiungiamo anche il farro e orzo, sono una combinazione straordinaria, oppure orzo e fagioli. Grazie Paolo da Milano. Il gastronauta. Domani è festa, si mangia la minestra? Ebbene, questo interrogativo lo rivolgo anche a Paola Go, che è curatrice del volume Osterie d'Italia dello Slow Food. Buongiorno Paola. Buongiorno. Bene, visto che tu ogni anno così hai a che fare con migliaia di osterie, la minestra sicuramente è un fatto di osterie, cioè che continua ancora in osterie, ti voglio chiedere se appunto da questa indagine che tu fai, perché praticamente fai anche un'indagine su tanti piatti, sì, se ti risulta che sia ancora diffusa la minestra. Ma io direi di sì, intanto è diffusissima la zuppa, nel volume che abbiamo recentemente curato, proprio dedicato alle zuppe, cerchiamo anche di fare un po' di chiarezza. Ecco, facciamo chiarezza tra zuppa e minestra, perché questo è importante, ce l'ha chiesto anche un radioascoltatore. Sì, ma a rigor di termini, il termine zuppa deve prevedere il pane, infatti all'origine sì, è una fetta di pane inzuppata e l'etimologia viene dal latino tardo, contaminato col germanico, suppa. In verità i ristoratori oggi chiamano zuppa tutto ciò che non è pasta asciutta, insomma. Sì, infatti poi sentiremo una nostra linguista che ci dirà perché si dice se non è zuppa è pan bagnato, quindi dopo lo vedremo un secondo questo. Prego Paola. Però ecco, mentre la minestra proprio così tradizionalmente è veramente brodo con alcune cose all'interno. Certo. Però insomma, come scriveva giustamente Massimo Montanari, le minestre sono veramente mille più di mille, perché oggi dentro la categoria minestra scriviamo anche le passatine, le vellutate, le creme, i minestroni. Si tratta, ecco, insomma, di intendersi sui termini e poi il tutto è anche molto legato agli usi regionali. Quindi è ancora vivo, però, che sia minestra, che sia zuppo, sì, pan bagnato, sì, è ancora vivo. Questo, sì, questo è importante. Vivo, questo è importante. Ti dirò che poi l'area padana, mentre al sud prevalgono minestroni con le verdure, molti legumi, prevalgono anche i pani cotti, pan cotto, cioè, con tutte le varie varianti. Nell'area padana direi che la minestra in brodo, ovvero la base un brodo ricco di carni, per lo più miste, con dentro le paste ripiene che conosciamo molto bene tutti, dai tortellini ai cappelletti, ai marubini, agli agnolini, agli anolini, queste sono un po' tutte, sì, le, certo, terminologie, direi che è proprio un piatto anche molto domenicale. E infatti domani è festa, si mangia la minestra, era un detto. Grazie Paola, grazie del tuo intervento. Sentiamo Stefano da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno. Signor Paolini, buongiorno. Senta, in Abruzzo a primavera viene servita nei ristoranti una minestra zuppa che si chiama Le Virtù, perché praticamente è fatta con tutti gli ingredienti che i contadini di una volta vedevano avanzati dalle dispense fatte l'inverno praticamente. E allora volevo sapere, è molto laboriosa ed è un po' una sciccheria, tant'è che nei ristoranti va prenotata perché non tutti, sì, la fanno, ci vuole molto tempo. Volevo sapere se qualcuno è in grado di dire gli ingredienti e le modalità. Beh, di... facciamo questo annuncio ai nostri radioascoltatori. Le Virtù si chiama, va bene. È una ricercatezza abruzzese. Bene, Le Virtù, lanciamo questo messaggio. Bene, abbiamo con noi l'autore di un libro freschissimo, che è Graziano Pozzetto, che è, diciamo, un validissimo ricercatore e anche un ottimo scrittore, che è proprio uscito in questi giorni con un libro che sono Le minestre romagnole di ieri e di oggi. Buongiorno Graziano. Grazie Davide, ciao, buongiorno a tutti. Sto ascoltando e mi sto divertendo. Allora ti voglio chiedere, ma in Romagna, visto in che Romagna tu hai per minestre, sì? Le intendiamo tutto, in brodo, asciutte, zuppe, da sempre. Nel libro che hai citato, e ti ringrazio, ho codificato all'incirca 500 minestre, da quelle presenti in letteratura, poche, da quelle tradizionali a quelle della memoria contadina, a quelle marinare e anche a quelle interpretate oggi dai migliori ristoranti romagnoli. Quindi è solamente un piatto fondamentale la minestra per la sopravvivenza di ieri, erano anche minestre matte senza uova e senza carne nel brodo. Oggi prevalgono le minestre asciutte, si possono trovare in famiglia ma anche in tanta ristorazione del territorio, diceva bene Cambi prima. Ecco, purtroppo stanno scomparendo le minestre in brodo. Non lo fa più nessuno, questo è il punto. La tradizione sta scomparendo, vengono proposte minestre asciutte molto frettolose, anche i cappelletti romagnoli, sia di magro che di carne, che tu sai bene da romagnolo, sono nati in brodo, vengono per lo più proposti in Asciutti. Sì, infatti c'è anche questo sacrilegio. Il ripieno dei cappelletti stessi. No, ma c'è anche questo sacrilegio di fare i passatelli asciutti, che secondo me è un altro sacrilegio, che i passatelli vanno fatti in brodo. Graziano, io lo ripeto, Graziano Pozzetto, Le minestre romagnole di ieri e di oggi, è un libro stupendo. Pensate, ha detto 500 ricette, ma è veramente molto approfondito, come sono tutti i libri di questo grande ricercatore romagnolo. Grazie Graziano e a presto. E Davide, buone cose. Grazie. Allora continuiamo, sentiamo Patrizia da Genova, la nostra radioascoltatrice. Buongiorno, sono molto contenta di poter parlare con lei. Mi dica. Buongiorno, io volevo ricordare due minestre che mi riportano un po' all'infanzia. E una è il famoso minestrone alla genovese, in cui il pesto viene tuttora rigorosamente aggiunto alla fine perché non deve cuocere, e in cui non si sa se per la proverbiale parsimonia di doni genovesi o per un gusto particolare che deve essere diverso, non vengono messi i pinoli. Ho capito. Nel minestrone non ci vuole pesto coi pinoli. E un'altra minestra proprio tradizionale, che vi ricordo, che faceva anche la mia mamma, i cosiddetti reginique, che sarebbe un brodo povero, diciamo vegetale, dove l'aglio viene cotto a lungo dopo averlo schiacciato proprio col palmo della mano, e vengono, la pasta sono le reginette, quella pasta sì, certo, ondulata, ecco, che di solito viene usata anche asciutta. Grazie. E in ultimo vengono aggiunte uova con maggiorana. Grazie Patrizia, perché abbiamo tantissime altre telefonate, però devo sentire Cecilia Robustelli, docente di linguistica all'Università di Modena. Buongiorno Cecilia. Buongiorno Davide, buongiorno a tutte e tutti. Allora, buona zuppa a tutti. O mangi questa minestra o salti dalla finestra. Da dove arriva questo detto? Questo è un vecchio detto popolare che è entrato anche in letteratura, ci sono attestazioni di fine Ottocento. Il significato è abbastanza trasparente, no? Uno, certo, conviene accettare la situazione perché l'alternativa è peggiore di quello che ci si può aspettare. E minestra entra in tantissimi proverbi. Ah. Da troppi cuochi rovina la minestra, che tutti conosciamo, a chi beve il vino prima della minestra vede il medico dalla finestra. Ah, ecco, questo è bellissimo, non lo sapevo, bravissima. Quindi farebbe salutare le due dita di vino che i nostri nonni magari bevevano o mettevano addirittura nella minestra, specialmente nell'Italia settentrionale, sarebbe curativo. Ecco, io voglio ricordare a questo punto un paio di radioascoltatori hanno mandato un sms sul sorbir d'agnoli, che è tipico padano, cioè rovesciare, diciamo, il cucchiaio di vino dentro la minestra. Lo faceva anche mio nonno con i cappelletti. Ma ti voglio chiedere anche un'altra cosa: se non è zuppa è pan bagnato, anche questo è un altro detto che si avvicina. Eh sì, se non è zuppa è pan bagnato, ha delle varianti anche locali: se non è zuppa è pan molle, se non è pappa è pan cotto. Sono definizioni che ci sembrano uguali, in realtà ci sono sfumature, come sappiamo benissimo, tra zuppa e pancotto. Non parliamo poi di zuppa e minestra, perché lì passa il confine gastronomico, come quello linguistico, tra aree italiane. Per esempio, tu ricordavi prima i passatelli da fare rigorosamente in brodo. Ti assicuro che all'Università di Modena c'è accanto un'ottima mensa dove fanno i passatelli in brodo, che sono il comfort food, sai che oggi, no? Sì. Va di moda questo concetto di tutti noi professori e anche studenti. Bene, però, io... No, il versante toscano, sai qual è il comfort no? food dei blue collars, come diceva sì, il primo ascoltatore? La zuppa di pane. Ma devo dire una cosa, che oggi scopriamo le mense universitarie, incredibile, Modena, e abbiamo scoperto Reggio Calabria, pazzesco. Grazie a te Cecilia, perché ho anche due radioascoltatori. Antonio dalla provincia di Milano, buongiorno Antonio, veloce. No, volevo segnalare la nostra minestra, diciamo, che è la famosa riso e prezzemolo, è un zic di aglio per dare quel gusto particolare che rende inconfondibile questa minestra. Bene, grazie al brianzolo Antonio. Sentiamo Sonia da Milano e poi chiudiamo. Buongiorno Sonia, veloce. Sì, ciao, sono Sonia. Senti, una minestra che fa mia mamma, che è pugliese, tutto messo a freddo, cavolfiore, semi di finocchio, cipolla, pomodoro e i pezzettini della crosta di grano. È una meraviglia. Grazie Sonia. Bene, allora, domani è festa, si mangia la minestra? Ebbene, devo concludere che pensavo di no. In realtà è proprio invece che si mangiano ancora le minestre, da quanto abbiamo sentito, proprio nei giorni di festa. Bene, anche qualche volta così ci sono dei detti che rimangono e sembrano così superati, in realtà non lo sono, anche nell'età della globalizzazione. Allora abbiamo chiuso questa lunga trasmissione e devo dire che sono arrivati centinaia di sms, una roba incredibile da tutta Italia, quindi la minestra è viva, lo dimostrano anche gli sms. E allora non ci resta che chiudere, darvi appuntamento per tutti i giorni col Gastronauta alle 18:30. Buon weekend a tutti.